Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Quanti ne abbiamo visti di eroi? Sono un eroe. Migliaia e sono solo la punta dell'iceberg. Mi riferisco alle mail che sono arrivate in questi 10 giorni. All'indirizzo Disperati Mai, l'iniziativa che Radio 24 ha lanciato 10 giorni fa per dare voce alla disperazione, ma anche al coraggio, all'orgoglio, alla paura, alla dignità di migliaia di italiani, in primo luogo, che poi nello specifico fanno i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti. Avete capito, è una puntata particolare quella di oggi di Focus Economia, inizia alle 16 e appunto, come ricordava il nostro GR, è una puntata che si inserisce nella giornata speciale che Radio 24 sta dedicando da questa mattina a Alessandro Milan, Oscar Giannino, Gianluca Nicoletti e poi il programma di Nicoletta Carbone che si è occupato del tema da un profilo, anche da un punto di vista anche psicologico, Deborah Rosciani con i consigli concreti agli imprenditori, insomma tutta la radio mobilitata per fare una cosa che dovremmo fare noi, beh forse sì anche noi, ma dovrebbe farla anche qualcun altro. E cioè occuparsi di quella parte non piccola del paese che oltre diciamo a produrre e a rappresentare la struttura produttiva di questo paese si trova in una difficoltà sconosciuta prima. Quando abbiamo lanciato l'iniziativa, lo dico con molta tranquillità, non immaginavamo di essere travolti da migliaia di mail di qualunque tipo, perché non stiamo parlando solo del caso classico di chi ha problemi con la banca e non ha l'erogazione dei fondi, ci sono i crediti dello Stato che non arrivano, c'è una congiuntura internazionale che sta abbattendo ogni consumo interno e c'è una trasformazione di questo paese che era in atto anche prima della crisi e che però va accompagnata, non si può dire a milioni di imprenditori arrangiatevi, il mondo è cambiato. Col mio superpotere. Puntata particolare, finirà alle 18.30, avremo anche nel corso di questa puntata alcuni dei temi classici di Focus Economia, però vorrei restare su quello che è l'obiettivo principale di questa puntata, quindi dare voce alle vostre lettere. Ripeto, lo ha fatto anche in questi giorni Oscar Giannino, non riusciamo chiaramente a leggere tutte le vostre lettere, cerchiamo di leggere quelle più emblematiche, quelle più simboliche, quelle che ne rappresentano altre, per così dire. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666, il numero verde, perché oggi fino alle 18.30 si può intervenire anche telefonicamente per i vostri, per le vostre telefonate è 800 24 00 24, un'iniziativa che vedrà oggi numerosi ospiti intervenire, personaggi che studiano le imprese ma personaggi che fanno gli imprenditori, perché vorremmo anche da loro un messaggio di fiducia, di speranza, senza raccontare la favola che tutto va bene, madama la marchesa, ma spiegando che si può andare oltre il fallimento di un progetto professionale e che, come abbiamo detto in questi giorni, è sbagliato far coincidere un progetto di vita, quindi la vita stessa, con il progetto professionale, pur capendo in che disperazione può piombare un imprenditore, una partita IVA, un commerciante, un artigiano, quando vede fallire tutto ciò in cui ha creduto e tutto ciò per cui ha investito. Vorrei iniziare subito leggendo alcune delle lettere che continuano ad arrivare incessantemente, ma non è la fine del progetto Disperati Mai. La giornata di oggi rappresenta per tutta la radio un giro di boa, un modo per fare il punto, per far capire che non solo non ci dimentichiamo di voi, ma continueremo finché qualcuno non darà anche una qualche risposta. Buongiorno, sono Fernando, un piccolo imprenditore del Basso Salento. Ho una piccola azienda con 26 dipendenti e nel giro di una settimana siamo arrivati a 12. Ho dovuto licenziare 18 dipendenti. Il nostro calvario è iniziato quando ITR SPA si è avvalsa della legge Marzano congelando tutti i nostri crediti, molto considerevole al punto che non siamo più riusciti a pagare gli stipendi puntualmente, arretrandoci di 3 mesi, non siamo più riusciti a pagare neanche i contributi e quant'altro, quindi ho preferito pagare direttamente i miei dipendenti. Dopo 2 anni di presa in giro da parte dello Stato, facendoci credere che avrebbero messo a disposizione un fondo di garanzia che non è mai stato accessibile per poter superare le carenze finanziarie, ci siamo resi conto che era tutta una presa in giro. Lo Stato ha salvato ITR, ma ha buttato a mare tutti i laboratori dell'indotto. Ora è arrivata la resa dei conti. Equitalia chiede il pagamento di tutto quello che non è stato pagato. Vi dico una cifra di 130.000 euro. Ho chiesto un pagamento dilazionato e mi hanno concesso solo 72 rate per un importo di 1.800 euro. Non ce la farò a pagare. La vergogna delle conseguenze mi sta facendo vacillare psicologicamente. Non dormo più per la paura delle conseguenze. Non ce la faccio. Saluti. Un microbo di imprenditore. Buongiorno, ho 31 anni, definito da qualcuno in passato un ragazzo prodigio, un treno, un tritasassi, agente, prima costruttore, poi diversificavo anche in altre aziende, in altri settori. Le banche non erano un mio problema, mai chiesto un leasing, un mutuo, un prestito, chi lavorava con me stava bene e si divertiva. Oggi guardo al passato con estrema amarezza e con estremo pessimismo al futuro. I debiti non mi spaventano quelli verso lo Stato, mi spaventano i 100 euro che devo al benzinaio, mi spaventano i 100 euro che devo all'operaio, mi spaventa creare malessere a chi la mattina si alza ancora soltanto per poter dare da mangiare alla famiglia. Oggi le banche, a cui ho fatto fare soldi, soldi veri, mi dicono che non ho uno storico creditizio e quindi sono uno sconosciuto per loro. Neanche quindi la magra soddisfazione di poter dire mi sono fottuto qualche banca. Io ho già superato la fase la faccio finita, perché ho capito che le cartelle che mi arrivano a ritmo ossessivo non valgono la carta in cui sono state stampate, non vedranno nulla. Questo governo non capisco cosa stia aspettando a darci il colpo di grazia, non capisco questo sadismo, non capisco perché uccide i suoi figli. Questo è un messaggio a chi sta peggio di me o che sta come me. Se vi hanno già spezzato, ironicamente, pensate che siete gli unici vincitori, perché con la vostra dipartita aziendale state disarmando il nemico, lo Stato. Mi chiamo Enzo, sono un microimprenditore del settore vinicolo campano di 46 anni. Da anni le mie difficoltà economiche aumentano sempre ogni giorno. Premetto che non ho vizi e non ho mai sperperato denaro. L'unica cosa che faccio ogni anno per 15 giorni mando mia moglie e mio figlio in vacanza a Ischia. Sono succube da anni delle banche e delle casse cambiali. 20 minuti fa ho avuto una telefonata della banca che mi diceva che devo coprire un assegno di 6.000 euro e mancano sul conto corrente 350 euro. Gli ho detto che vado lunedì e mi hanno risposto che tanto stonano l'assegno, pertanto dovrò pagare il famoso 10% e in più si incrina il rapporto con la banca. Che devo fare? Andare da uno strozzino? Inoltre sono sincero, ho pensato tante volte di suicidarmi, ma non ho le palle, e poi lascerei mia moglie e mio figlio di 14 anni con una tragedia psicologica a vita e li lascerei nei guai. Buongiorno, ascolto la vostra radio e come tanti sono un fallito. Avevo uno studio di progettazione nel settore contract nella ricca Brianza. Lo studio era un fiore all'occhiello, arrivato fino a 25 progettisti assunti a tempo indeterminato per i tre quarti certificato ISO 9200, quindi tutto perfetto. Ma questa crisi mi ha messo in ginocchio e dopo un'agonia di circa 18 mesi ho dovuto abdicare. Purtroppo le banche mi hanno abbandonato e nonostante abbia cercato di resistere ipotecando la casa e accedendo a mutui extra non c'è stato niente da fare, anche perché dopo aver ipotecato e giocato ai mutui le banche mi hanno tagliato i fili e a quel punto tutto il castello di carte è crollato. Ho oggi sono fallito. Nonostante la società avesse uno stabile di proprietà che in 3 anni non siamo riusciti a vendere, e dulcis in fundo, le banche etiche hanno bloccato il conto a una piccola ditta di mio figlio e un socio che a volte collaborava con noi, ma che essendo un SRL non poteva essere fonte di distrazione di fondi. Ieri, nonostante le discussioni in banca, niente da fare, e il consiglio del direttore è stato quello di cambiare banca. Io ho la fortuna di saper lavorare e mi sono state fatte delle offerte interessanti, ma a 54 anni con 30 anni di attività in proprio è dura dover timbrare un cartellino, e non per gli orari ma solo per il modo di lavorare e di pensare. Un grazie per l'appoggio che date a tutti noi. No comment, non c'è nessun commento mio su questo, ma ringrazio per averci di nuovo raggiunto in collegamento il sociologo Aldo Bonomi. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. È una puntata speciale, Radio 24 ne fa tante di speciali che non avremmo mai voluto organizzare, lo dico con molta chiarezza a chi si fosse fatto qualche strana idea. Questo programma, o meglio Focus Economia, si occupa della giornata economico-finanziaria, non della disperazione che sta attraversando il tessuto imprenditoriale di questo paese, ma tant'è. Bonomi, lei era già venuto all'inizio di questa nostra iniziativa, che devo dire si muove nella grande attenzione degli ascoltatori ma anche nel grande silenzio dell'autorità. Meglio non parlarne. I colleghi sono attenti, ci invitano, ma insomma, non si è vista se non un'interrogazione parlamentare di una senatrice del PD, non si è visto nulla. Le faccio subito la domanda che poi sarà il filo conduttore dell'intero speciale fino alle 18:30. Lei quando intervenne una settimana fa disse: attenzione, il problema è che spesso queste persone confondono o sovrappongono il progetto di vita con il progetto di impresa, e bisogna spiegare che se fallisce il progetto di impresa non è detto che fallisca il progetto di vita. È chiaro che quando uno è piccolo e cresce in un contesto, in un microcosmo, come li chiama lei, è più difficile. Ma lei si sarà chiesto anche il perché di questo silenzio assordante? Non dico le mail di quelli che scrivono ma tanto sono evasori che fino a ieri godevano del nero e adesso piangono, vabbè, quello è un po' di invidia sociale, ma non c'è qualcosa di più, non c'è una resistenza culturale ad ammettere che c'è una parte d'Italia che ha contribuito alla ricchezza e che adesso soffre? E non è magari l'operaio che monta sulla gru? Beh, se devo dire la mia opinione papale, io credo che avete fatto benissimo lei e Oscar Giannino ad aprire questo faro di attenzione e questo racconto dicendo disperati mai, ma raccogliendo la disperazione verso che cosa? Beh, io dico subito che io non ci sto, ma non ci sto a questo campo retorico che definisco del moralismo autoritario da una parte e del moralismo populista dall'altra. Mi spiego. Mi pare che ci sia un primo popolo di ottimati, li chiamiamo tecnici. Diciamo subito una cosa, che non tiene fede ai propri impegni, che deve crediti per 100 miliardi, e sappiamo benissimo che molti di quei suicidi non sono suicidi per debiti, ma sono suicidi per crediti che non arrivano, soprattutto da parte di coloro che fanno lavorare dall'alto. Intendo dire, molti di quegli imprenditori, molti di quelle lettere disperate che lei ha letto, Barisoni, e che il pubblico ha sentito, sono piene di lamenti, di crediti dalla rete, dalla pubblica amministrazione dello Stato che non arrivano. Questo è un primo punto sul quale bisogna essere molto chiari. Questa drammaticità della rottura del progetto di vita con l'impresa si rompe molto spesso per crediti e non per debiti. Questo è il primo punto su cui riflettere, e quindi quei 100 miliardi, ovviamente, bisogna incominciare a porre la questione, ed è una questione grande come una casa, che vale 100 miliardi rispetto a questo. E non si onorano gli impegni con un secondo popolo che tendenzialmente non ha mai avuto voce, se non questo, virgolette, sfogatoio duro che Radio 24 gli ha messo a disposizione. Ma parliamoci chiaro, il vero problema è che non si mantengono gli impegni, soprattutto perché si pensa che, siccome abbiamo a che fare con una miriade di individui, il problema non è un problema collettivo e non è un problema sociale. E invece, io dico, è un problema sociale che riguarda 6 milioni di partite IVA. Questo è il vero punto. Poi dentro quei 6 milioni di partite IVA ci possiamo entrare dentro, ragionare e capire. Ma ad esempio, ho sentito da 10 minuti le lettere che lei ha letto e non c'è dubbio che ci ritrovo. Il professionista che ha fatto in Brianza con 25 addetti che faceva progettazione e la piccola impresa di Salerno. Quindi questa è la rappresentazione di quel popolo o di quella moltitudine di 6 milioni di partite IVA. Ci sono giovani che sono arrivati a fare l'impresa dentro un processo di terziarizzazione estremamente interessante, che sogna il futuro. Ci sono soggetti che sono al lavoro dentro le filiere manifatturiere e ci sono soggetti che sono al lavoro nel capitalismo minuto del nostro territorio. Disperati mai, grazie per la grandissima possibilità che ci offrite. Vi parlo della mia situazione. Ho 33 anni e porto avanti un'azienda di famiglia nel settore alimentare. Durissimi 2 anni precedenti, ma comunque si riusciva a portare avanti anche la gestione della fabbrica. Da settembre gli ordinativi sono crollati, la liquidità è nulla, le banche mi hanno chiuso ogni possibilità di risollevarmi. Ho pensato di spostare tutto all'estero, ho pensato a vendere, ma a chi? Ho pensato a togliermi la vita. Sì, ogni tanto quando ti trovi come in un vicolo cieco, non sai più cosa fare, la disperazione dilaga. Ci ho pensato, ma la mia famiglia, Andrea di 6 anni, Alice di 4, tengono ancora viva la mia voglia di andare avanti. Non so in questo momento come. Sono ritornato a vendere in strada, dai clienti ci vado io, batto io il marciapiede, ho tagliato i costi, ma più di così non si può fare, più di così cosa ci vogliono portare via? Il diritto di vivere, appunto. Buongiorno, la mia vita è finita oggi, 26 aprile 2012. Ho 37 anni, sono barese, geometra, sposato, 2 figli piccoli di 4-9 mesi, sono un piccolo imprenditore dell'edilizia. In passato una realtà giovane dove davo lavoro a varie famiglie, ho sempre aiutato tutti, l'attività l'avevo ereditata da mio padre. La mia azienda è ferma da 10 mesi, nessuna commessa. Oggi mi chiamano in banca per comunicazioni urgenti e a sorpresa mi comunicano che Equitalia, con un semplice messaggio, ha bloccato il conto corrente aziendale a rosso e uno cointestato con mia madre, dove gestisco la pensione di mio fratello disabile. Tutto perso, pignoramento presso terzi, mi comunica il direttore di filiale, il quale con molta delicatezza mi dice: dai, adesso portami la documentazione, presentiamo il tutto ad una finanziaria. Io non ho detto nulla a nessuno, ormai sono ore che giro senza una meta, trattato come un ladro, come un bandito. Ecco come mi sento. Coraggio a chi andrà avanti. Io non ce la faccio. Viva l'Italia, viva Equitalia. Allora, Bonomi, il primo messaggio è che ce la dovete fare comunque, nel senso che la disperazione, io non so veramente come si faccia a ignorare, non voglio essere retorico, ma il grido di dolore che raccogliamo così con un'iniziativa banale, ma insomma qui c'è un problema di uno Stato, come lei diceva, che non ti paga o ti paga in ritardo e sta trattando per trovare un accordo su questi 70-100 miliardi di crediti, però lo stesso Stato, vedi il caso di Equitalia, non ce l'ho con Equitalia, fa bene Equitalia per seguire gli evasori fiscali, oggi la notizia 2000 evasori totali per 6 miliardi di euro, fa benissimo, ma ci rendiamo conto del caso che ho appena letto, no? Cioè, anche il conto corrente della madre col fratello disabile, no? È normale, Bonomi? No, è proprio qui il problema, è proprio qui il problema, che in un meccanismo mediatico in cui si è sempre detto che i titolari di piccole imprese sono ovviamente dentro al meccanismo dell'evasione, si pensa di additare questa categoria sociale ovviamente a farne un capro espiatorio. Non è così, non è così. dentro quel capitalismo molecolare, qui andiamo a vedere come le vie di uscita, attualmente, per quello che lo conosco io, ci sono tre blocchi sociali. C'è una componente di impresa che certamente ce la sta facendo, che non scrive a lei ovviamente, sono quelli che pur essendo piccole imprese sono dentro un ciclo della subfornitura in filiere di medie imprese che vanno nell'internazionalizzazione. Lo sappiamo tutti, da Istat, eccetera, eccetera, si dice chi è riuscito a mettersi in quel pilone lì riesce a farcela e ha ovviamente una dimensione in cui non scrive a lei ma ha altri problemi di competitività. Poi c'è un corpaccione, il motore immobile, ce ne sono tanti che dal 2008, da quando è iniziata la crisi, ad andare avanti, si sono messi in stand-by. Sono lì, tra parentesi, segnalo che molti di questi, per tenere in piedi l'impresa, per capirci, hanno venduto quella che era la seconda casa, hanno incominciato a investire nell'impresa per tenerla in piedi, che sono lì, ovviamente, che sono in attesa, ovviamente in una dimensione di crisi totale del mercato interno, e ovviamente cercano le vie per seguire quelle avanguardie agenti che ce l'hanno fatta. Poi ci sono i dannati della terra, dove sta scavando una selezione darwiniana, ed è quello che sta avvenendo, e di questi bisogna occuparsi, tanto per capirci. Il problema è quindi, in primo luogo, come abbiamo ragionato moltissimo dentro la crisi del fordismo e la dimensione di crisi della classe operaia, sugli strumenti di cassa integrazione, eccetera, bisogna cominciare a pensare a degli strumenti che diano un po' di fiato, un po' di speranza, un po' di speranza. Questo è indispensabile. E gli strumenti di speranza non possono che venire, a mio parere, dai comuni e dalle regioni, purché comuni e regioni abbiano un minimo di autonomia di intervento e non siano strozzati da quel patto di stabilità per cui anche chi ha asfaltato la strada provinciale, chi ha fatto i servizi per rimettere a posto le scuole, chi ha fatto una fornitura per le ASL o per le strutture sanitarie, ovviamente si ritrova davanti alla risposta: non ci sono soldi, venite più tardi. Primo dato rispetto a questo. E quindi bisogna fare un intervento di apertura in questo momento. Secondo punto, io credo che bisogna che si muovano in maniera forte le parti sociali, perché qui c'è un problema che riguarda, io non so quanti di questi che scrivono queste lettere sono iscritti a Confartigianato, alla CNA, ma dico alla Confcommercio, eccetera, dico che è il momento per Rete Imprese Italia, che è, diciamo così, questo luogo che li mette tutti assieme, di battere un colpo rispetto al governo, rispetto alle strutture, per muoversi. Quindi bisogna che la voce non sia solo la voce di Radio 24, ma ci sia una voce dei corpi intermedi. Vado oltre, anche le Camere di Commercio sono il luogo in cui sul territorio si fa questo, e tocca ai presidenti delle Camere di Commercio prendere voce rispetto a questi problemi. Ci sono Camere di Commercio che io conosco che proprio nella drammaticità dei problemi hanno messo degli sportelli con lo psicologo per gli imprenditori che sono in difficoltà di fallimento. Sì. Ma non basta, questa è l'emergenza ovviamente, per far capire che c'è quindi sempre una seconda chance, bisogna incominciare a costruire la seconda chance. Sono d'accordissimo. Questo è il punto. Sono d'accordissimo con lei, Bonomi. Da un lato si devono muovere gli enti locali, perché chiaramente poi ogni realtà va seguita, dall'altro anche le associazioni di categoria. Aggiungo che poi lo Stato a livello centrale deve trovare un accordo con il mondo delle banche per far respirare questo, queste persone. Vi faccio dare una risposta, poi abbiamo la borsa e la saluto, ma a chi dice invidia sociale, ma che disprezza, attenzione, la cosa peggiore che può capitare a mio avviso in questo momento è la guerra tra poveri. Non c'è nessuna guerra tra l'operaio in cassa integrazione e l'imprenditore fallito, è sbagliato, la guerra non è tra poveri, la guerra tra poveri, adesso non rispolveriamo vecchie categorie, ma va bene solo ai potentati. Mi faccia fare una battuta, sì. Mi faccia fare una battuta, questi drammi che lei ha raccontato, che sembrano drammi individuali, invece sono drammi collettivi, hanno lo stesso peso degli esodati, uguale, identico. È una questione, una ferita sociale aperta che va chiusa, e sia per gli esodati che per questo, per il capitalismo molecolare, siamo in presenza di un non mantenimento degli impegni, delle strutture che vogliono da noi, ovviamente, rigore, tasse, eccetera. Se uno chiede questo, deve anche dare. D'accordissimo con lei. Bonomi, ripeto, non contrapponete l'operaio cassintegrato che va sulla gru con l'imprenditore che è disperato. Non c'è nessuna contrapposizione. Da questa crisi si esce o tutti assieme o non si esce, e lo deve capire anche la Germania, se vogliamo ragionare in maniera più macroeconomica. Grazie Aldo Bonomi. Se posso fare ancora una battuta? Sì, che ho la borsa. Ecco, lei ha citato la Germania. Tenete conto che se non ci occupiamo di questo, stiamo distruggendo l'humus imprenditoriale su cui ha retto il capitalismo manifatturiero italiano. E la ricchezza, e anche la ricchezza. Questo è il grande problema. E anche la ricchezza di questo paese, perché insomma la provincia, la celebrata provincia italiana, frutto di una buona qualità di vita e quant'altro, si è realizzata e costruita in questi decenni nel silenzio, senza mai essere raccontata da libri, film e quant'altro, ma si è costruita attraverso milioni di piccoli imprenditori, non con qualche centinaio di grandi gruppi industriali che poi possono spostarsi dove vogliono. Grazie ancora Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster. Adesso la borsa, e poi torniamo a raccontare le vostre storie assieme agli ospiti di questa puntata speciale di Focus Economia, e anche gli ascoltatori, chiedo scusa per l'attesa, che hanno già chiamato all'800 24 00 24. Delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Sono tutti eroi, per favore non cadete nella trappola di qualunque elite, ossia contrapporre poveri su poveri, l'operaio cassaintegrato, il dipendente esodato con la parte IVA, l'imprenditore che viene strangolato dalle banche, da Equitalia, dai crediti che non riesce a vantare dallo Stato. Non c'è nessuna contrapposizione. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera. Niente, io volevo dare solo la mia testimonianza. Allora, prego. La settimana prossima riconsegno i libri in tribunale. Mi scusi, non. Allora, la mia azienda ha 30 anni, io ho 40 anni, seconda generazione, e non ce l'ho fatta. E mi dicono: perché 2 anni fa non l'hai chiusa? Perché avevo 40 dipendenti e ho cercato di farcela comunque. Oggi il mio avvocato mi dice che rischio la galera. Mi scusi. Prego, Francesco. Allora, comunque sia, lo dico a tutti, io domani mattina mi alzo, mi metto la cravatta e continuo, perché i miei figli non pagheranno per tutto. No, lei domani si alza, si mette la cravatta, fa quello che deve fare e continua a pensare sui figli. Io continuerò. Certo, ci mancherebbe. Continuerò, perché tutte le mattine io mi metto la cravatta e invento me stesso, sempre, e non mi tira giù un avvocato stronzo o tutto quello che sento alla radio adesso. Mi scusi. No, perché? Mi stanno dando una colpa, la colpa è che dovevo chiudere 2 anni fa, quando mi ero accorto che la mia azienda andava male. Ma io avevo tanti dipendenti, 40 dipendenti. Non potevo non dare a loro la possibilità di andare avanti. Ho pagato le mie spese, mi hanno pignorato la casa. Non ho più nulla. Non ho un conto corrente, vivo di soldi alla mano. La mattina esco di casa con 20 euro per mettere benzina. Fino a un anno fa davo da mangiare a 40 famiglie. Non è giusto, non è giusto che quando si è in difficoltà ti girano tutti le spalle, le banche per prime. Le banche ci hanno girato le spalle, Equitalia ci ha girato le spalle e io mi sono ritrovato senza nulla. Mi scusi, volevo solo dire questo. No, intanto in bocca al lupo a lei e a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto in questi giorni. Francesco, guardi, abbiamo letto queste mail in questi giorni per far capire che c'è chi dice, adesso lo ascolteremo forse, che tante solitudini non fanno una comunità, però io non la penso esattamente così, penso che intanto sia importante dare voce. Lei ha detto la cosa più importante, che anche domani si alza, si mette la cravatta e riprende e riparte, anche perché ha due figli, ha una famiglia e tutto quanto, e perché non c'è... Non possiamo dargli per vinta. No, guardi... L'imprenditore ha una forza, esatto. Sa inventare se stesso. Esatto, ecco. E poi se posso dire... Noi dobbiamo essere quelli. Se posso dire, non fate mai coincidere la fine di un progetto di lavoro con il progetto di vita. Non ha senso, non se lo meritano. La vita va avanti, le cose cambiano, per carità. Io capisco che quando uno mette in un progetto di lavoro tutta una vita e magari lavorando e vivendo in un microcosmo questo sia più facile, però veramente non ha alcun senso. E poi a un certo momento rivolgetevi, lo diceva prima Bonomi, alle associazioni di categoria e casomai se non ce la fa non pagate, ma la vita viene prima ogni cosa. Prima o poi gliela faremo capire, non tanto al governo, anche agli enti locali, alle regioni, ai comuni, alle banche. Una che cosa, prego. Io dimostrerò a qualcun altro, okay? Perché lei deve sapere che quando si va in giro adesso, io la mattina, ripeto, vado in giro con una macchina tutta rotta, ma quando vedo le persone ti guardano, dicono quello è un fallito, quello... Vabbè, per una macchina ti giudicano, ti giudicano perché sanno tutta la storia che non ce l'hai fatta e ti danno del fallito. Non fa niente, io mi sono detto, io dimostrerò domani, ci metterò 1 anno, 10 anni, quello che sia, ma io dimostrerò che l'imprenditore ha una stoffa e è diverso, ok? Perché l'imprenditore ci mette del suo. Io mi sono bruciato tutte e due le mani su questo lavoro, ci ho creduto fino alla fine, ma domani ricomincio con un altro lavoro, non fa niente. Bravo. Io l'anno scorso sono andato a fare io il colloquio, mi sono trovato due ragazzine di 25 anni che mi giudicavano, cosa che io avevo tirato su da niente, 10 milioni di fatturato di azienda, e mi sono trovato due ragazzine davanti che mi dicono ci dispiace ma io non sappiamo come posizionarla, lei non sa fare nulla. Allora, ecco. Se vuole resti con noi in collegamento oppure resti comunque in ascolto, perché io ringrazio anche gli altri ospiti che ci hanno raggiunto. Ringrazio in primo luogo anche Giulio Sapelli, che è stato ospite in questi giorni. Buonasera professore, insegna storia economica della Statale di Milano. Grazie anche alla direttrice dei progetti Fondazione Pangea, Simona Lanzoni, organizzazione non profit che lavora sul microcredito. E grazie però a Michele Perini, che attualmente è presidente della FIA di Milano, ma è anche stato per lunghi anni presidente dell'Asso Lombardo. Buonasera Perini. Buonasera a lei, radioascoltatore. Senta Perini, poi parliamo anche di un'altra cosa, ma da imprenditore a imprenditore, vuole dire qualcosa Francesco da Roma? Caro Francesco, purtroppo quello che lei ha detto è una cosa comune a tante imprese. Io mi auguro che anche questo suo appello, questa voglia di andare avanti, questa voglia di non mollare, sia preso in esame e chi ha procurato questi danni, che si chiama mondo finanziario internazionale, che sta spesso nelle posizioni di rilievo. Vorrei ricordare che delle 27 banche che hanno più del 51% della ricchezza mondiale, 19 amministratori sono ancora al loro posto. E allora forse qualcosa più che una protesta c'è da fare, e anche a chi ci governa deve capire che chi fa l'impresa, che chi muove il motore dell'impresa, che chi ha le famiglie dietro non pensa a licenziare, pensa a come continuare ad andare avanti. Quindi cerchi in ogni caso di andare avanti. Guarda, il mio settore ha perso il 50% in un anno di fatturato. Stiamo lottando nella sua stessa maniera. Se non ci ascoltano, gli manderemo le chiavi degli stabilimenti a Palazzo Chigi. delle bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Sono un eroe. Allora, difficile anche per chi conduce giostrarsi tra le telefonate drammatiche e le lettere che stiamo leggendo, però Sapelli è ancora convinto che la nostra iniziativa così sia al limite o stiamo banalmente, modestamente scoperchiando un vaso di Pandora che devo dire trova anche poca eco in questo paese, poi magari cerchiamo di capire perché. Sapelli. Ma no, io... bisogna chiarire alcune cose. L'esibizione pubblico del dolore personale è sempre un fatto che genera un profondo dramma, e da questo punto di vista lei e i suoi colleghi e la stessa radio sono veramente esemplari nel sollevare questo dolore. Il mio senso del limite è il senso della riservatezza che io credo che bisogna avere verso queste tragedie, anche perché temo appunto effetti imitativi in persone che sono al limite della resistenza psichica. Detto questo, per carità, sono consapevole quanto lei, ne ho contezza di questo, certo meno di lei e del suo collega Giannino, che avete intrapreso questa benefica autorevole, diciamo, iniziativa. E naturalmente però quello che mi fa pensare è che anche in questo caso, quello che io ho scritto e ho detto molte volte, che è scomparso ormai il senso di giustizia e di ingiustizia, viene confermato dal fatto che passi avanti istituzionali per evitare questi problemi, la riforma delle banche, la nazionalizzazione di alcune di esse che ormai è inevitabile, la fine della vendita di prodotti cosiddetti over the country che non sono regolati dai mercati e dalle regole che in essi sussistono ancora adesso, tutto questo non si fa. Non è solo la classe politica che è sorda, è anche la cassa top manageriale, soprattutto dei grandi intermediari finanziari, capisce? Questo secondo me è un senso drammatico di quel libro profetico che 30 anni fa scrisse un grandissimo sociologo americano, Burlington Moore, che si intitolava Injusting, che diceva: quando è che una società va in decadenza? Beh, uno dei segni è la scomparsa del senso di giustizia. Io di questo me ne ero accorto quando nessuno levava il dito per condannare il fatto che tra lo stipendio di un operaio e di un top manager ci fosse una differenza di una mille. Adesso qui la gente si suicida e ma si continua l'andazzo di prima, quindi veramente è ciò che dice il Santo Padre, siamo davanti a un nichilismo di massa, nichilismo finanziario, nichilismo istituzionale, c'è la gente che so, uno che sente una telefonata come quella che lei ha fatto sentire prima è sconvolto, io sono sconvolto, mi è venuto da piangere, invece c'è chi pensa che questo debbano essere le regole dell'economia neoclassica e del cosiddetto mercato. Questa vicenda che lei ci fa vedere dimostra quello che diceva il mio vecchio maestro Federico Caffè, che i mercati non esistono, sempre dei nomi, dei cognomi e spesso anche dei soprannomi. Ecco, allora io non do nessun soprannome a molte di queste persone che non hanno più il senso di injustice, di ingiustizia, ma certo che bisogna avere un pelo sullo stomaco spaventoso. Dico solo questo, poi che cosa vuole? Io sono un uomo senza speranza, quindi spero che tutte queste persone trovino una loro soluzione. Ecco, ma lei rappresenta la tragicità dell'essere di un capitalismo ormai che ha perso la spinta propulsiva dell'anima. Non so se può andare avanti. C'è addirittura chi vuole che io rilegga una delle prime lettere che abbiamo letto oggi. La rileggo. Buongiorno, sono Gaetano da Bari. La mia vita è finita oggi, 26 aprile 2012. Ho 37 anni, sono geometra, sono sposato, due figli piccoli di 4 e 9 mesi. Sono un piccolo imprenditore dell'edilizia. In passato una realtà giovane, davo lavoro a varie famiglie, li ho sempre aiutati tutti, l'attività l'avevo ereditata da mio padre. La mia azienda è ferma da 10 mesi, nessuna commessa. Oggi mi chiamano in banca per comunicazioni urgenti e a sorpresa mi comunicano che Equitalia, con un semplice messaggio, ha bloccato il conto corrente aziendale in rosso, a rosso, e uno cointestato con mia madre, dove gestisco la pensione di mio fratello disabile. Tutto perso, pignoramento presso terzi, mi comunica il direttore di filiale, il quale con molta delicatezza mi dice: dai, adesso portami la documentazione, presentiamo il tutto ad una finanziaria che conosco. Io non ho detto nulla a nessuno, ormai sono ore che giro per Bari senza una meta, sono trattato come un ladro, come un bandito, ecco come mi sento. Coraggio a chi andrà avanti, io non ce la faccio. Viva l'Italia, viva Equitalia. Perini, io ricorro alla sua grande esperienza di imprenditore, anche di, ripeto, presidente dell'Asso Lombarda. Cioè, secondo lei ci si rende, voi lo sapete, ma ci si rende conto di quanto migliaia di casi facciano una massa, che poi non è una massa che vota forse in maniera uniforme, ma insomma io ho la sensazione che faccia più notizia il nome di un partito o anche l'atteggiamento tragico che la disperazione che sta attanagliando piccoli, piccolissimi imprenditori. Veramente così, qui purtroppo siamo abituati che nel mondo della comunicazione vince i gossip e non vincono le storie vere. Quello che ha detto mio amico Sappelli è profondamente vero, queste testimonianze fanno capire il senso dei problemi, 17.000 fallimenti nella provincia di Milano in un anno, molti settori sono alla frutta, poi è vero che c'è il glamour, l'Axori che vende, l'esportazione che aumenta, ma la maggior parte delle aziende italiane non hanno tutto questo, la maggior parte delle aziende italiane vive di impresa, nel luogo dove si fa impresa, è difficile fare forse edilizia in un paese straniero se non sei una grandissima impresa, è difficile fare servizi per l'impresa e per il cittadino se sei fuori dal paese. A me sembra che questo stato di difficoltà poi sia in qualche maniera dimenticato dai media e poi leggiamo solo le cose più tragiche. Il vero problema è che manca il lavoro e manca soprattutto la fiducia nel futuro, che è quella che muove l'economia. Un momento difficile c'è, si tira la cinghia, ci si mette tutti insieme si cerca di superare. Molta gente non ha più voglia, questo collega imprenditore di Bari ha proprio dimostrato la... Ma noi dobbiamo... Focus Economia. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. 17-8 minuti, riprende lo speciale di Focus Economia, che è lo speciale di tutta la radio da questa mattina, che dedichiamo il palinsesto praticamente a Alessandro Milan, Oscar Giannino, Gianluca Nicoletti e poi tutti gli altri programmi di questa radio dedicati al dramma, ma anche a dare voce, a fare sentire meno soli le migliaia di imprenditori che ci hanno scritto per l'iniziativa Disperati Mai. Nicoletta Carbone, Deborah Rosciani. Noi andiamo avanti, daremo anche qualche aggiornamento come sempre facciamo in questo programma. Perini, mi dispiace ma gli obblighi pubblicitari l'hanno interrotta mentre stava finendo il ragionamento, ex presidente dell'Asso Lombarda, presidente della Fiera di Milano. Ma io stavo semplicemente dicendo che questa iniziativa mi sembra lodevole perché fa capire alla gente qual è poi il problema, insomma, quando si vede che ci sono cali dei consumi nei alimentari, nei farmaceutici, nel consumo di benzina, nel gasolio, nei trasporti, allora nell'utilizzo dell'energia elettrica vuol dire che qualche problema serio c'è. E quindi bene si fa a farlo presente, perché non è tutto goffi, non è tutto positivo. Però bisogna anche andare a dare qualche segnale positivo. Diamo. Noi in Fiera Milano l'abbiamo fatto e credo che ritornare al dividendo con una fiera che si regge solo con le proprie gambe sia un fatto importante. Ecco, ce lo dia un segnale positivo, perché voi oggi avete fatto tra l'altro l'assemblea e avete confermato un bilancio insomma con 5 milioni di utile. Adesso devo anche ricordare il resto d'Italia, poi continueremo a raccontare le storie di chi è in difficoltà. 5 milioni di utili contro i 2 milioni del 2010. I ricavi un po' di più, sono più di 8 milioni gli utili, abbiamo 31 milioni di EBITDA, 280 milioni di fatturato in crescita. Certo, abbiamo fatto una cura di una grande importanza, abbiamo cambiato molte risorse umane, abbiamo ridotto il numero delle società, abbiamo tolto gli sprechi, io stesso vado in giro in motorino per dare l'esempio, e quindi tutto sommato credo che i vertici devono dare gli esempi del buon governo e metterci la faccia. Devo dire che il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano ci ha messo la faccia, ha preso decisioni importanti, e quindi possiamo dire che Fiera Milano è una vera piattaforma della politica industriale del paese, e quindi ben vengano tutti quelli che hanno la possibilità, ma che possono essere anche aiutati da noi a rilanciare, a internalizzarsi, ad andare in giro per il mondo insieme a noi. Guardi, Perini, la sua commozione mi dice più di tante parole. Complimenti comunque veramente alla Fiera di Milano, che tra l'altro distribuirà anche utili agli azionisti, 20 centesimi, questo me lo conferma. Centesimi per azione. Grazie Michele Perini, appunto presidente della Fiera di Milano ed ex presidente dell'Asso Lombarda. È ancora in collegamento Giulio Sapelli, e poi vorrei sentire chiaramente Simona Lanzoni, visto che però oggi in maniera eccezionale dalle 16 siamo in diretta e prendiamo anche le telefonate al numero verde 800 24 00 24. Vorrei ascoltare Carlo da Modena e poi Antonio da Brindisi. Carlo, buonasera. Un momento. Carlo? Sì, sono in linea, signor. Sì, buonasera Carlo, mi dica. Benissimo, molto importante, voi fate molto bene a trattare questo argomento in tale modo, però mi sembra una totale piangeria da parte degli imprenditori. Lo sono anch'io, e da molti anni ho già avuto difficoltà, dove anche le stesse imprese italiane con le quali collaboravo spesso mi hanno dato la colpa dei problemi che loro avevano. Non mi sembra il discorso corretto, anche se voi fate bene, il modo di trattare la crisi. Essendo io un oriundo, nato all'estero in Argentina, e i nostri nonni hanno avuto il coraggio di emigrare, faticare, lottare, e nessuno si suicidava. Non trovo che sia la forma corretta di affrontare il problema. La dico in poche parole, a questo punto il vostro analisi. Sembra che non avere soldi sia l'unico problema di questo mondo. I problemi si risolvono anche diversamente. La famiglia deve essere una risorsa, la cultura, l'educazione, e non suicidarsi per avere problemi finanziari. Tutto qua. No, da tutto qua, ma è molto importante quello che lei ha detto. Allora, con la massima, noi comprendiamo i drammi e continueremo a leggere anche in quest'ora e mezza le vostre lettere, ma io sono d'accordissimo con lei. Il titolo di questa iniziativa si chiama Disperati Mai, nel senso che la paura si può capire, l'angoscia si può capire, vediamo però anche molto coraggio, molto orgoglio, molte persone che dicono, vabbè, come ha detto anche in quella telefonata drammatica delle 16, singhiozzando l'imprenditore, cioè lui si sveglia e si rimette la cravatta. Questo è importante nella vita. E come diceva si diceva anche poco fa, attenzione, non confondere il progetto di un lavoro, di un'impresa, con il progetto di vita. La vita è una cosa più importante. Su questo però tornerò su con Giulio Sapelli, prima di salutarlo. Vorrei ascoltare però anche Antonio da Brindisi. Antonio, buonasera. Salve, buonasera Barisoni. Niente, io volevo dire questo, mi ha fatto piacere la telefonata ascoltata poc'anzi, perché forse è lo spirito giusto con cui affrontare questi problemi. Io anche nel 2008 ho dovuto affrontare, dopo quando iniziavano a certificare che c'era forse una crisi, la crisi della mia azienda, azienda aperta nel 95, è tenuta aperta con grandi sacrifici fino al 2004-2005 quando ho iniziato a barcollare. Mi sono trascinato fino al 2008, nel 2008 ho cercato di fare quello che tanti purtroppo stanno facendo, non ci sono riuscito, non ho avuto il coraggio, la fede, la famiglia mi hanno salvato. Oggi sto ritentando, cerchiamo di andare avanti. Dobbiamo soltanto, io lo dico a tutti gli imprenditori, lottare, lavorare. E forse il concetto che spesso il signore Oriundo, quello di prima, il denaro, non deve essere tutto nella vita. Nella vita abbiamo altro. Forse la disperazione oggi è soprattutto il perdere il denaro, il perdere il bene materiale che più ci rendeva magari uguali agli altri, perché l'imprenditore negli ultimi 20 anni ha significato essere forse assomigliare a qualcuno che fortunatamente non c'è più da qualche mese al governo. Forse i sogni di grandezza ci hanno portato a tutti e ci hanno fatto perdere la nostra giusta dimensione, la nostra vera dimensione. La crisi c'è, non possiamo negarla, non possiamo negare che siamo in crisi. Però attenzione, il frutto di tanti guai non è solo questa crisi. Equitalia è dannata, va bene, ma Equitalia arriva a pignorare non dopo 2 giorni, dopo magari 1 o 2 anni. Per cui attenzione a tanti imprenditori, perché siamo qui rischiamo di fare di tutti, tutta, come dire, no, di tutta merda un fascio. Sì, sono d'accordo. Non è così. C'è chi magari non ha veramente soldi per pagare, io magari sono uno di quelli, che non ho veramente i soldi, ma le denunce le presento. Non sono un evasore di quelli che dicono, non pago perché non ho i soldi, appena c'è soldi pago, rateizzo magari subito con la gente rientrata. Sì, no, lei ha assolutamente ragione. Se posso dire, io le migliaia di mail che sono arrivate, grazie anche al lavoro di Barbara Bianchi in redazione, e di Marco Tulli per quello che riguarda Oscar Giannino, le abbiamo lette tutte praticamente. Devo dire che quelli che scrivono adesso, per carità, io non sono in Equitalia, ma non sono gli evasori totali scoperti oggi la Guardia di Finanza, i 2000 evasori per 6 miliardi di euro, quelli non scrivono, sono persone che hanno cercato, da quello che leggiamo, e noi ci fidiamo di quello che scrivete, hanno cercato di vivere più o meno sempre all'interno della legalità e soprattutto di difendere i dipendenti. Le piccole imprese hanno questo rapporto assolutamente familiare anche nel rapporto con i dipendenti. Comunque, grazie anche a lei Antonio, prima di sentire Giulio Sapelli, poi dare anche qualche notizia in breve di questa giornata e arrivare al microcredito, vorrei sentire anche Alice da Torino. Buonasera Alice. Buonasera, scusi la voce è un po' tremula, ma quando parlo di queste cose mi viene sempre. Prego. Allora, io volevo dare solo il mio contributo in quanto figlia di un suicida. Mio padre si è tolto la vita 18 anni fa, però non nella crisi di oggi, erano gli anni 90 e probabilmente, io non lo so, ero piccolina, avevo 16 anni, ma magari era anche un evasore, magari aveva tutti i torti di questo mondo e tutto quanto, però è un uomo che si è tolto la vita per una questione di soldi, di debiti, di tanti debiti, perché mia madre ha dovuto rinunciare a tutto, io non ho neanche una foto di mio padre, ecco, perché abbiamo dovuto rinunciare a tutto. Quello che voglio dire agli imprenditori che però pensano di togliersi la vita per i soldi è, prima di tutto, che sono d'accordo con chi è intervenuto prima di me e sono felice che qualcuno lo pensi, e secondo, che noi che rimaniamo, per quanto questo, che quello che mi è successo mi abbia forgiato, mi abbia dato energia, io sono un'imprenditrice, non ho paura di questo, del lavoro sono cresciuta, i miei fratelli anche, siamo una bella famiglia, però io dopo 18 anni ancora sto male, ancora piango, ancora non ho dimenticato, ancora ho difficoltà a relazionarmi con le altre persone e nella mia testa c'è sempre la stessa frase: se è riuscito a mollarmi lui, lo possono fare tutti. Quindi pensateci bene, perché non ci sono solo i soldi. Chiedo scusa. No, grazie invece, non scusa, grazie Alice. Allora, Giulio Sapelli, qui insomma, no, non c'è niente da dire, delle volte il silenzio, però voglio dire, l'invito di Alice è un invito di, insomma, a non mollare mai, anche, devo dirlo, visto che non stiamo parlando solo di soldi, anzi, forse l'errore arriva da lì, pensate ai familiari, pensate che la vita è anche altro, Cristo, ma prego. No, voglio dire, bisogna anche pensare che l'impresa è una delle poche cose che la società moderna che realizza una dialogicità dell'uomo con l'essere, con il lavoro. L'impresa, soprattutto la piccola e media naturalmente, deve realizzare l'amore tra gli uomini nel lavoro, oggettivando il lavoro. Che capiti questo è una cosa veramente disastrosa, quindi bisogna, e qui l'amico Portegno argentino tiene mucha ragione, signor argentino ha ragione, bisogna avere, mentre c'è la compassione, bisogna avere uno scatto di liberazione creativa. Proprio l'Argentina è la prova che al fallimento si è risposto spesso con le cosiddette fabbriche recuperadas, operai da soli, poi invece operai non solo soli, ma con i manager, alcune cose con alcuni proprietari falliti, hanno rimesso in moto più di 3.000 imprese. Ci sono tante società che reagiscono alla solitudine con l'associazionismo cooperativo. Cioè, bisogna dare a questi imprenditori un orizzonte che non è solo lo statalismo che non mi aiuta, ma devono associarsi, devono costruire delle imprese cooperative, devono andare dalle banche cooperative che li fregheranno meno delle altre, o non li fregheranno affatto, come io spero, come io ho le prove. Ecco, quindi bisogna, sì, bisogna che questo dolore si trasformi in dovere associativo liberatorio, perché se rimaniamo soli, la globalizzazione neoliberista accademicamente neoclassica, ci fa secchi uno per uno tutti. Perché questi i nuovi cloni delle business school non hanno pietà, puoi morirgli davanti agli occhi e per loro va sempre bene. Quindi bisogna associarsi e reagire con calma, con dignità, ma associarsi economicamente e solidarmente. Sì. Sennò questi ci fanno secchi tutti. Ecco, Sapelli, mi viene in mente quanto disse, tra l'altro era un suo allievo, qualche settimana fa in questo programma, il preside di sociologia alla Cattolica, Magatti, che dice, insomma, purtroppo veniamo da 20 anni, 25 anni in questo paese di forza sostanzialmente centrifuga, in cui l'individuo valeva solo come individuo, l'importante era affermarsi da soli, e il nord che rifiutava il sud, la periferia che rifiutava il centro, cioè è stata una divisione continua in questo paese, e adesso ci ritroviamo con la necessità di metterci in cordata, di metterci in rete, e però forse abbiamo dimenticato come si fa in alcune aree del paese. Certo, anche perché le forze che avrebbero dovuto farlo si sono in gran parte, lo dico moralmente, si sono in gran parte moralmente corrotte, perché hanno aderito ai miti che ci hanno portato alla crisi. Quindi bisogna rifondare veramente tutto. Partiamo dal dolore per rifondare la speranza. Partiamo dal dolore per rifondare la speranza. Questa la prendo perché insomma un po' di comprensione anche per il conduttore. Bellissimo l'intervento di Alice, bellissimi gli interventi devo dire, di tutti gli ascoltatori che abbiamo fin qua sentito. È la figlia di un suicida che spiega adesso, che spiega perché è sbagliato. Così come l'imprenditore che spiega perché è sbagliato, mi sembra una delle cose più belle che sento da anni, assieme alla disperazione degli altri ascoltatori che stanno chiamando all'800240024. Per respirare chiedo aiuto, spero di non caricare di un compito troppo grosso, a Simona Lanzoni. Lei appunto è direttrice dei progetti della Fondazione Pangea, è un'organizzazione no profit che lavora per favorire le condizioni di sviluppo economico delle donne e delle loro famiglie. Voi conoscete bene il microcredito, anche perché lo avete applicato in paesi dove questo è motivo di vita, di sopravvivenza, l'India, l'Afghanistan, e anche in Italia. Ecco, cos'è una rete di microfinanza, Lanzoni? E mi dia anche un commento su quanto ha appena detto Sapelli sulla necessità di mettersi in rete, prego. In realtà abbiamo iniziato a fare il microcredito nel momento peggiore che potevamo, ovvero dopo la prima crisi del 2008 qui in Italia. E devo dire che mi viene subito da darvi una risposta rispetto a tutti gli interventi che ho sentito, molto toccanti, molto importanti, che una delle cose che noi vediamo proprio nell'intervenire in Italia è quanto molto spesso l'imprenditore viene lasciato solo prima di avviare la propria impresa, ma soprattutto anche dopo, perché tutto sembra che sia il momento dell'avvio dell'impresa, no? Parliamo di microimprese, quindi a volte non si arriva assolutamente a 40 dipendenti o più, si arriva al massimo a 9 dipendenti, però quanto sia importante l'accompagnamento e il tutoraggio dell'impresa e della persona, non solo dal punto di vista del business plan, perché i business plan si possono inventare, sono delle ipotesi, no? Che uno fa di vendita, di rientro, in realtà è un accompagnamento proprio complesso su tutto quello che sono le norme fiscali, ma anche e soprattutto la parte relazionale, ovvero non farli sentire da soli, aggiornarli, soprattutto perché il mercato cambia così velocemente in questo ultimo periodo che a volte non si riesce a stare dietro. Molto spesso noi lavoriamo particolarmente con le donne, le imprenditrici, anche nel momento in cui avviano, poi rimangono sole, non si confrontano, hanno dei problemi, ma non parlano tra imprenditrici, rimangono con il loro problema senza la soluzione fino ad arrivare poi alle peggiori delle situazioni. Quindi il lavoro del microcredito in Italia, che è molto diverso paesi dove noi operiamo nel sud del mondo, è un grossissimo lavoro di accompagnamento pre e post proprio all'avvio di impresa, quindi è un lavoro di relazione fondamentalmente, perché il microcredito risponde a un'economia di tipo relazionale, è quello anche che vorrei dare come risposta. È vero, il sistema capitalistico, il mondo finanziario è qualcosa che lavora e vive sull'astrazione dell'economia, no? La finanziarizzazione dei mercati è proprio questa. In realtà il microcredito è l'altra risposta, è un'economia relazionale dove non si va a comprare nel grande centro di distribuzione, ma dove in realtà la panettiera che apre scambia due parole con te. E quindi è veramente un modello, un sistema economico diverso. Fondazione Pangea lavora dal 2010 proprio con donne che hanno difficoltà a essere bancabili, ormai tutti abbiamo difficoltà a essere bancabili, basta avere un lavoro precario e quindi un contratto a tempo per non essere più bancabile oltre il tempo del proprio contratto, no? Lavoriamo con un fondo di garanzia con Banca Etica e lavoriamo proprio per dare delle risposte a persone che vogliono comunque sperare, vogliono comunque ricominciare, a volte hanno perso il lavoro e quindi si devono riposizionare dopo i 40 anni e quindi il microcredito è una risposta in piccolo. Appunto, a volte bisogna riciclarsi nella vita e quindi ricominciare dal piccolo. Beh, devo dire, assolutamente d'accordo, devo dire che con gli interventi disperati, di disperazione vera, dimostrazione che chi scrive, adesso c'è un ascoltatore che io ogni tanto mi arrabbio, c'è uno che ha scritto che palle con questa trasmissione, con sta roba, siete ridicoli, sì vabbè cambi canale e non le auguro il resto, ma dicevo... la disperazione che noi leggiamo nelle migliaia di mail che abbiamo ricevuto è quella che sentite per telefono, però accanto alla disperazione ci sono stati due interventi, uno drammatico della figlia di un suicida, ma l'altro di un imprenditore che venendo dall'Argentina sa cosa vuol dire la disperazione del baratro, esatto. E che hanno detto attenzione, non c'è cosa al mondo, e qui saperli potranno fare una puntata di ore su perché si è arrivati a un individualismo sfrenato in cui se tu perdi la macchina e hai la macchina che non vale più, pensi addirittura a toglierti la vita, ma andremo troppo fuori oggi dal programma. Io ringrazio Simona Lanzoni, direttrice del progetto di Fondazione Pangea, Giulio Sapelli che insegna storia economica alla Statale di Milano e torno a fare quello che è il mio compito, a dare voce ai disperati mai. Buongiorno. Alcuni anni fa ho iniziato a indebitarmi con le banche per poter pagare le tasse correttamente, pensando ad una situazione di crisi passeggera. Poi sono iniziate ad arrivare le cartelle di Equitalia, che ho iniziato prima ad onorare in un'unica soluzione, poi ho iniziato a rateizzare, onorando le rate, ma senza riuscire a pagare le tasse nuove, perché quando non ce n'è, non ce n'è. Così si è innescato un meccanismo dove mi trovavo a pagare il vecchio con le relative maggiorazioni a rate, omettendo gli impegni e le corrette scadenze e creando contemporaneamente nuove cartelle, il cane che si morde la coda e con il fatturato in continua contrazione. Ad oggi i miei pensieri giornalieri notturni sono che faccio? Vivo così, sapendo che ogni giorno che passa i miei debiti si gonfieranno? Quel mostro sempre più potente prima o poi mi mangerà? Che vecchiaia avrò? Mi pignoreranno la pensione? Già ho nella schiena quasi 2 milioni di chilometri che stanno presentando il conto. Potrei anche cessare l'attività, vivere di espedienti ed ovviamente in nero. Prima o poi Equitalia contatterà le mie case mandanti per il quinto del fatturato, già misero. Mi sento chiuso in una stanza da dove non posso uscire, con le pareti che si stringono lentamente ed inesorabilmente. Io non vedo via d'uscita, vedo una mia vecchiaia fatta di povertà e malattia. Ah, dimenticavo. Ci sono stati anni in cui il mio nome appariva sulle testate locali tra i migliori contribuenti del comune dove abitavo. Veramente proprio non so cosa fare. Personalmente sono troppo attaccato alla vita per fare pazzie, ma posso capire chi decide per il gesto estremo. Che senso c'è nel vivere quotidianamente per il niente, anzi nella consapevolezza che l'unica cosa che produci è quel famoso debito che prima o poi ti mangerà. Noi non commentiamo queste lettere, io però non posso essere d'accordo con la parte finale di questa lettera, per i motivi che stiamo raccontando da un'ora e mezza, perché non c'è un buon motivo per togliersi la vita, non c'è fallimento che giustifichi il togliersi la vita, e quindi non posso concordare con quello che ha scritto questo ascoltatore. Mirko Gasparotto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Adesso inizia la parte senza forzature, senza strumentalizzazione, la parte in cui vorrei, alcuni li abbiamo già sentiti anche degli elementi di speranza, senza negare la tragedia e il dolore che sembra solo Radio 24 se ne è accorta oggi in una programmazione, ripeto, che è iniziata questa mattina dalle 8 con Alessandro Milan e Oscar Giannino. A politica non c'è scritto, iniziative particolari non ne vediamo. Vabbè, noi continuiamo, tanto insomma. Questo è il nostro dovere etico, non dovere in primo luogo professionale, in primo luogo etico. Mirko Gasparotto, per chi non lo conoscesse, è stato nostro ospite molte altre volte, è un uomo che si è inventato dal nulla. Lei ha iniziato come fattorino, è arrivato a avere quante società sotto suo controllo? 11 società in questo momento il gruppo. Poi ha lasciato tutto ai suoi dipendenti, ha lasciato tutto, si è tenuto la presidenza e ha demandato tutto ai suoi collaboratori. E adesso cosa fa nella vita? Vuole adottare 10.000 bambini, gli studi di 10.000 bambini in giro per il mondo. Quanto siete arrivati? A 12.000 bambini con 70 scuole su 13 stati. Allora, Gasparotto, io mi rendo conto che qua la ricetta non ce l'ha nessuno, Però la ricetta del morale, se mi fate usare una parola forte, la ricetta del cuore, quella sì, quella si può dare. Lei ha sentito gli interventi di prima, sì. Insomma, perfino nel dramma di chi è rimasta orfana per un padre che per debiti si è suicidato, è arrivato un messaggio, a mio avviso, fortissimo di reazione. Sì, è un grande momento in cui bisogna ripensare la centralità della vita. Questa crisi, questa situazione che è innegabilmente difficoltosa per tutti, ci offre la possibilità di riequilibrarci un po', di mettere al centro la vita, che è la cosa più importante e più preziosa che abbiamo, e di non fare confusione tra il lavoro, che occupa la gran parte della nostra vita, e la vita stessa, e quindi l'equilibrio. Purtroppo vengo dal nord-est, quindi moltissimi miei colleghi, io stesso per 20 anni sono stato un alcolizzato di lavoro, ma l'ho scelto io, quindi, però non avrei potuto fare tutta la vita così. E il lavoro è importante, ma non è l'unica cosa al mondo. Quando c'è necessità come adesso, si alza la mano, ben vengano queste iniziative di trasmissioni che divulgano la voce così, perché magari parlando, magari scambiandosi un'informazione con qualche altro imprenditore, con qualche altro collega, si trova la soluzione, ma mai arrivare alle soluzioni estreme, perché quella non è una via d'uscita, si inizia un'altra strada che non va bene. Ha ragione un ascoltatore che dice: attenzione, non sono i soldi che ci portano alla disperazione, pensando anche a un altro estremo, secondo me non giustificabile, mai, ma la mancanza di un'identità, che era il discorso che faceva all'inizio di questa lunga diretta, alle 16, Aldo Bonomi, cioè quando il piccolo imprenditore che vive in un microcosmo è ciò che è per il lavoro che fa, viene meno il lavoro che fai e non sei più te stesso, si chiama in sociologia suicidio anomico, cioè cambia, non capisci qual è il tuo ruolo nella struttura sociale che ti circonda, lì per lì, vicino di casa, il bar di fronte, non grandi categorie dello spirito. Certo, bisogna gestire anche gli altri ruoli della propria vita, Marisoni. Io ho scritto un libro un anno fa che ha venduto oltre 12.000 copie, e questo libro parla della necessità di sviluppare anche tutti gli altri ruoli della nostra vita, di non essere forti e onnipotenti solo in uno, cioè quello dell'impresa, ed avere pochi obiettivi, pochi riferimenti sugli altri. Questo è il momento esatto per riorganizzare la nostra vita, rimettere al centro quelli che sono gli affetti, la famiglia, i valori, la scala dei valori, le cose importanti. Si trova molta gente disponibile ad aiutare questi imprenditori. Io stesso vado in continuo soccorso di persone che mi chiamano, mi chiedono di scambiare un caffè, un pranzo, una cena, per capire delle soluzioni. Poi parlando e vedo che do delle soluzioni esterne che non avevano visto, perché nel momento in cui tu entri in questo vortice di difficoltà, cominci a somatizzare, cominci a vedere tutto nero, cominci a pensare ai problemi. Ricordiamoci che nella vita i problemi, quando noi ci concentriamo, aumentano esageratamente e non vedi soluzioni, quindi hai bisogno di un aiuto esterno. Benvengano le trasmissioni, benvengano gli amici che si rendono disponibili a fare anche degli aiuti in questo senso. Roberto da Bologna, buonasera. 800 24 00 24, il numero verde. Oggi prendiamo eccezionalmente anche le vostre telefonate, ci mancherebbe. Roberto, buonasera. Buonasera, ascolti, io sono in macchina, io sono un piccolo imprenditore, siamo nell'azienda di mio padre, l'ha creata lui, ci sono io e da 2 anni è entrato mio figlio. Diciamo che siamo 3 generazioni dentro a una piccola azienda. Io ho telefonato prima perché ho sentito quell'imprenditore, io sto girando per trovare il lavoro per l'azienda, mi sono fermato in un angolo perché mi sono venute le lacrime agli occhi, perché finché tutto va bene in Italia noi siamo bravi, siamo dei bravi imprenditori, siamo dei bravi commercianti. quando le cose vanno male, ha ragione, ci girano tutte le spalle, le banche non ti danno una mano, finché hai i soldi per andare avanti, addirittura te li regalano i soldi, quando sei in difficoltà ti tolgono tutto. Lei prima parlava di una guerra tra poveri, ma la guerra tra poveri è già iniziata purtroppo, perché con tutto quello che lei sente alla televisione, tutte le trasmissioni, si sta facendo del gran disfattismo e molti operai che sono in cassa integrazione ce l'hanno col datore di lavoro, molti operai che sono in cassa integrazione ce l'hanno col commerciante che è un evasore, quindi la guerra purtroppo tra i poveri è iniziata. Io quando ero piccola ho iniziato a correre nell'azienda di mio padre e giocavo in mezzo ai miei operai, mio figlio la stessa cosa, io con alcuni miei dipendenti mangiamo nella stessa fabbrica. Dover pensare un domani di doverli mettere a casa perché non abbiamo lavoro, lei dice è un atto estremo, è vero. Io non voglio darla vinta, io voglio stare, sto girando in macchina, io e mio figlio, stiamo cercando di trovare lavoro, ci stiamo inventando. Però non è facile, mi creda, perché ti trovi tutte le porte chiuse in faccia quando hai bisogno. No, e le associazioni, lei dice rivolgersi alle associazioni, noi non siamo più dentro nessun tipo di associazione, le associazioni vanno bene per prendere l'iscrizione, ti vogliono che ti iscrivi, ti diranno, ti daranno una mano e poi ti si stringono nelle spalle e vedi se puoi andare avanti. Non c'è nessuno, io le dico ben venga una trasmissione come la vostra. No, è tutta la radio, è tutta la radio da questa mattina, oltre che secondo, questa trasmissione. Secondo me la cosa più bella che state facendo in Italia la state facendo voi, non sta facendo nessun altro. Bene, adesso non esageriamo, Roberta. Comunque, grazie no, molto. No, le dico, io lavoro in macchina, giro sempre tutto il giorno in macchina dal lunedì al venerdì. Quindi la mia radio è sempre sintonizzata sui vostri canali, non avete fatto un canale, non avete una trasmissione che sia sciocca. Grazie. Non riesco a capire i telespettatori che... Grazie, no, vabbè, non si parla, non si parla, quindi degli ascoltatori, quelli ci sono sempre, quelli che si divertono a criticare. Grazie, giro i complimenti suoi chiaramente al direttore e a tutta Radio 24, redazione, assistenti programmi inclusi. Chiusa questa breve parentesi, grazie Roberta, perché... più di tante analisi oggi è la volta di sentire le vostre voci, poi torneremo a fare analisi, fra poco faremo anche la borsa. Maria Teresa da Roma, buonasera. Buonasera a voi, io volevo intervenire in quanto sono figlia di un imprenditore che ha 78 anni e come tanti imprenditori italiani è una generazione di ferro che negli ultimi 10 anni sta soffrendo, non è una crisi di oggi, ovviamente. Ultimamente le questioni giuridiche, normative, organizzative, le banche, il mercato globale, tutto quello che possiamo mettere fa chiaramente peso, ma è una crisi strisciante dell'imprenditoria italiana perché non adeguatamente supportata da politiche, da interventi seri e anche da un ambiente che non sia un ambiente ostile. Io voglio dire di questa generazione di ferro, di questa generazione chiaramente di resistenti, di eroi, che invece combatte e che certe volte chiaramente proprio come il ferro si spezza. Guardi, è una cosa che a me ha fatto molta impressione qualche tempo fa, è la testimonianza della cosiddetta generazione 1000 euro, che ha detto: ma noi veniamo più capiti dai nostri nonni, quelli che hanno vissuto la crisi del dopoguerra, che si sono rimboccate le maniche, che dalla generazione dei nostri padri, che sono cresciuti per fortuna in un boom economico e non hanno mai visto quello che stiamo affrontando noi. Mi ha fatto molto impressione questa cosa, grazie anche lei, devo dire che sembrano fatte apposta, ma sono delle testimonianze bellissime e ringrazio tutti gli ascoltatori per questo. Devo dare il metodo, la pubblicità. Gasparotto, resti con noi, poi avremo altri imprenditori, altri messaggi. La borsa oggi ve la faccio io, se vi fidate, con un aggiornamento breve. Non mi sembra, si può anche sintetizzare la borsa una volta tanto, dato che non cambia niente. Le bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Va La borsa. Oggi non c'ho voglia di fare la borsa, vedete un po'. È dalle 16 che raccontiamo il coraggio, la disperazione, l'orgoglio, la dignità. La borsa la farò, vi darò un aggiornamento. Più 1,85% Milano, più 1,14% Parigi, più 0,90% Francoforte, più 0,40% Londra. Bene, in recupero le banche. Monte dei Paschi, più 7,5%. Popolare di Milano, più 6,80%. A2A, più 5%. Prismian più 4 come Fiat Industrial e Buzzi Unicem, Salvatore Ferragamo più 30,90, UbiBank più 3,40, Mediaset più 3% come Generali, il 2,80 lo guadagna la Popolare Emilia Romagna, il 2,60 Autogrill, il 2,5 Banco Popolare, il 2,40 Impregilo, il 2,30 Finmeccanica. Non c'ho voglia di fare le borse oggi. Porti pazienza a chi ascolta il programma solo per questo, da lunedì torniamo a fare anche i mercati finanziari come sempre, però insomma non anche il conduttore diciamo ha un suo registro emotivo. Alex da Milano, buonasera. Buonasera a tutti. Dopo aver sentito gli interventi ho sentito la necessità di chiamarvi per raccontare la mia storia e un filo di speranza. Bene. Insomma, non vuole essere autoreferenziale. No, è una mia esperienza. 24 anni, io ho 31 anni oggi, a 24 anni stavo frequentando l'ultimo anno di economia e commercio all'università quando mio padre, piccolo imprenditore con 4 dipendenti, un fatturato da circa 1,5 milioni di euro, è morto in un incidente stradale. Io mi sono ritrovato a 24 anni a guidare l'azienda di famiglia con un fratello più piccolo a 19 anni che ancora andava a scuola e mia madre che non aveva mai lavorato. Per 2 anni le cose sono andate abbastanza bene, abbiamo tenuto botte, insomma, compatibilmente con l'inesperienza, poi ha cominciato a fioccare problemi tramite Equitalia, sono venute fuori delle cartelle esorbitanti per errori fatti da mio padre, contestazioni, insomma, siamo stati praticamente sommersi, all'inizio avevamo pagato, ci siamo ritrovati costretti a vendere la casa dove abitavamo e la casa dei miei nonni, che erano morti anche loro qualche anno prima. Ci siamo ritrovati a vendere quello che era rimasto del pacchetto cliente, che poi in realtà l'azienda funzionava, l'azienda andava, erano questi debiti pregressi nati con Equitalia. Abbiamo venduto tutto e ci siamo ritrovati tutti in mezzo alla strada. Abbiamo preso una casa in affitto, un bilocale, dormivamo in 3 in un bilocale. Mio fratello l'abbiamo mantenuto per fargli finire la scuola, finita la scuola è andata a lavorare, io ho ricominciato, non ne volevo ovviamente più sapere di imprenditoria, sono andato a fare l'operaio perché non avevo capacità specifiche a 26 anni, mettendomi nel mercato del lavoro e avendo fatto il piccolo imprenditore con l'azienda del papà, nessuno voleva avermi in azienda, non avevo conoscenze specifiche da spendere. Ho fatto per un anno per vendere bene il pacchetto clienti, il consulente presso l'azienda alla quale avevamo venduto il nostro pacchetto clienti. Ho cominciato a fare l'operaio in un nuovo mercato, in un nuovo mondo lavorativo e a distanza di 4 anni l'indole, forse non lo so, mia notizia di 2 mesi, sono il nuovo amministratore delegato della SRL e sono dentro come socio in questa nuova attività. Oh. Questo per dire. Guardi, io non ho niente da aggiungere perché è una parabola la sua, è un paradigma di tutto quello che stiamo cercando bisogna di crederci. Dire. Bisogna crederci, purtroppo la vita sembra sempre che ti tiri delle legnate pazzesche una in fila all'altra, cioè a me ma come anche altre storie sentite oggi. Io credo, e non è per fare una lotta di classe, perché io ho un piede, l'ho messo in tutte e due le scarpe, ma semplicemente che chi ha determinate capacità che non sono né migliori né peggiori di quelle di altri che fanno magari lavoratori dipendenti, poi alla lunga vengano fuori, perché è proprio un'attitudine questa, non è una. Grazie per l'invito. Io devo, chiaramente ho anche gli obblighi della programmazione. Giuseppe da Bergamo, resti in ascolto. Grazie Alex da Milano perché è una storia bellissima. Mirko Gasparotto è ancora con noi, ci ha raggiunto anche Marco Palmieri che è presidente delegato di Piquadro. Buonasera Palmieri. Mi senti? Resti con noi anche lei. Ho il traffico, poi Giuseppe da Bergamo, poi voi, poi ci sarà Oscar Farinetti, Pierluigi Celli e chiudiamo con Oscar Giannino, cioè chiudiamo da dove siamo partiti in questa lunga, difficile vi assicuro, sono più facili altre conduzioni piuttosto che queste. Giornata che Radio 24 ha dovuto, perché è un dovere etico, a mio avviso, se si può ancora usare questa parola, dedicare a tutti coloro i quali sono senza voce. Traffico. Strade in diretta. Traffico che è intensissimo in uscita dalle grandi città, ma sono gli incidenti a causare le code più lunghe. 3 gli incidenti in uscita da Milano, complice un tamponamento. Le code sulla A4 sono di 8 km in direzione di Brescia, tra la barriera di Milano Est e Cavenago. Per un altro incidente, le code per chi dall'autosole deve immettersi sulla tangenziale ovest milanese. Un incidente condiziona la circolazione in uscita da Roma, si è verificato sulla diramazione Roma Sud. È trafficatissima l'autosole tra Emilia Romagna e Toscana. Le code in Appennino tra Calenzano e Barberino verso Bologna sono per un incidente. Ci sono code per un altro incidente con più veicoli coinvolti tra Firenze Certosa e Firenze Sud verso Roma. Noi torniamo tra un'ora. Focus Economia. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Giuseppe da Bergamo, buonasera, il numero per le vostre telefonate è 800 24 00 24, 349-238-6666, resta quello per i vostri sms. Giuseppe, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, voglio essere breve, altrimenti bisognerebbe scrivere un libro. Sono Giuseppe di Caravaggio, sono vice sindaco e sindaco qui al mio paese, e adesso il problema è nato quando io ho venduto un immobile e non me l'hanno pagato. Pronto? Sì, la sento, la sento. Ah, mi sento. È un bel momento. Dovevo prendere 400.000 euro, ho preso 2 macchine di lavoro, io faccio restauratore di biliardi antichi, e ho preso un'attrezzatura che mi è costata quasi 100.000 euro, ma non mi preoccupavo in quanto ero coperto dei soldi che dovevo prendere. Però pur essendo miliardario, nella crisi ho sfruttato la situazione e non l'ho pagato. E di lì ho cominciato la tragedia. La banca mi aveva dato i 200.000 euro. Quando mi sono trovato così, sono andato dalla banca a dirgli, intanto che metto a posto le cose, c'è per fare un fido. Ma loro mi avevano già ipotecato tutte le mie proprietà. Ma mi hanno ipotecato per 250.000 euro, sono proprietà di 1.100.000, quindi potevano comunque dopo si sono fatti dare un mutuo loro, si sono messi d'accordo, e il mutuo che mi hanno dato l'hanno usato per coprire un mutuo di mia figlia, quindi si sono fatti dare il mutuo per loro. In più, senza che io sapessi qualcosa, mi sono trovato firmato, ho fatto la firma falsa o me l'ha fatta fare lì, mi ha fatto firmare una fiduzione di 157.000 euro. È una cosa di un'assurdità su un immobile già ipotecato da loro e poi coperto con il mutuo che si sono fatti dare loro, e poi mi ha fatto fare, insomma, per dirla, io sono qui seduto sulla macchina a sentire voi che avete fatto un'iniziativa. Non so se di lodare è troppo poco, no. E adesso io non ho neanche bisogno di soldi, ho bisogno, perché ho scritto anche al prefetto, perché c'era una commissione del prefetto che conciliava tra chi non paga e chi deve prendere i soldi. Okay. Ma l'hanno chiuso, non c'è più. Allora, ho capito benissimo il suo dramma, perché la sua difficoltà. Voglio lasciare spazio anche agli altri ascoltatori. Mirko Gasparotto, nel salutarla abbiamo un minuto scarso, mi dice una frase, poi parliamo con Marco Palmieri invece, visto che è da quasi un'ora che Ancrei ci accompagna. Era molto bello l'intervento anche dell'ascoltatore precedente, a mio avviso, di chi si rialza all'improvviso. Sì. Facciamo una cosa, Gasparotto, siccome sono temi troppo delicati, non gliela posso, poi la troncano con le nuove regole. Abbia ancora 5 minuti di pazienza e gliela faccio dire alle 18.05, poi Marco Palmieri, Pierluigi Celli, Oscar Giannino con noi, 349-238-6666 per gli sms, 800-24-00-24 per le vostre telefonate. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopra... 18 e 7 minuti, riprende questa puntata speciale di Focus Economia che è iniziata alle 16, come tutta la radio sta facendo da questa mattina, ripeto, Oscar Giannino, Alessandro Milan, Gianluca Nicoletti, Nicoletta Carbone, Deborah Rosciani. Tutti a dedicare la voce, lo spazio, l'unica cosa che possiamo dare alle persone in difficoltà, alla loro disperazione, alla loro paura, ma anche alla loro rabbia, al loro orgoglio e alla loro dignità. Si può usare in questo paese ancora la parola dignità. Maurizio da Verona, buonasera. Buonasera Barisoni. Niente, anche il mio non vuole essere assolutamente un intervento autoreferenziale, ma un po' come dire in linea con l'ascoltatore di prima, imprenditore, settore tessile, più di 20 dipendenti, alcuni anni fa per difficoltà di incassi si entra in quel circolo che tutti conosciamo, sino dalle prime cartelle di Equitalia, non onorate, Equitalia arriva, pignora i macchinari, vengono messi all'asta i macchinari, mi faccio aiutare da alcuni amici per cercare di ricomprarli, ovviamente le aste sappiamo come funzionano, quindi al ribasso, per cui pur avendo ricomprato i macchinari non è stato sufficiente per ripianare i debiti con Equitalia, che si ripresenta dopo 6 mesi, ripignora gli stessi macchinari e via di questo passo, sino alla chiusura dell'azienda un paio di anni fa, gli immobili di proprietà ipotecati, pignorati, conti correnti ipotecati e pignorati. Anch'io vivo con il contante, non posso fare altrimenti, ho 3 figli, mia moglie che aveva una vita agiata si è rimboccata le maniche, lei fa le pulizie, si alza alle 4:30 della mattina presso una cooperativa, fa le pulizie presso studi medici, io sono un dipendente presso un'azienda tessile, da poco questa azienda mi ha chiesto anche se sono interessato a partecipare anche nell'azionariato, ovviamente non ho la possibilità economica e stiamo valutando le modalità. Paradossalmente tutto questo ha reso i rapporti in famiglia molto più solidi, molto più sereni, anche la semplice pizza che qualche volta possiamo permetterci diventa una grande conquista. Questa è la mia semplice esperienza. Grazie. A lei, arrivederci. Gasparotto, Palmieri, voi che siete imprenditori, che siete partiti dal nulla e siete imprenditori di successo, adesso avete il dovere morale, se mi permettete, di dare una speranza a queste persone, di dare una possibilità di riscatto. Alcune delle testimonianze che stanno arrivando vanno in questa direzione. Gasparotto. Sicuramente la voglia di tutti gli imprenditori medi come me, come persone che hanno della disponibilità di aiutare, di incontrare queste persone, di ascoltarle e di poter dare anche seppur dei semplici consigli, delle indicazioni che possono essere determinanti, perché ripeto, quando tu sei in quello stato, entri in quello stato, non sei più lucido e quindi non hai più la lucidità mentale per poter fare le scelte migliori. Ecco, anche in questo semplice caso di consiglio noi possiamo essere utili e per andare oltre anche alla capacità di aggregarsi, alla capacità di farsi aiutare, di mettersi insieme, voglio dire, io stesso un anno fa mi sono messo in gioco, abbiamo rilevato un'azienda, abbiamo salvato quasi 300 posti di lavoro, mi sono messo a lavorare 20 ore al giorno, cosa che non facevo da anni, ma quando c'è la causa buona sono i posti di lavoro, l'impatto sociale eccetera, c'è molta gente come me che vuole aiutare l'Italia, vuole aiutare gli imprenditori, vuole aiutare le persone che sono in difficoltà, cercateci, contattateci tramite Radio 24, fatevi sentire, ma sono convinto che c'è molta gente disponibile ad aiutare, a mettersi a servizio e a dare proprio contributo positivo. Grazie Mirko Gasparotto. Questa è una linea rossa, un filo rosso che sta emergendo da queste due ore e passa di diretta: la necessità di mettersi in rete oltre che di dare voce, trovare un modo per restare incordata. Marco Palmieri, lei con Piquadro oggi la borsa festeggia il debutto eccezionale di Brunello Cucinelli. Voi siete un settore che di crisi ne vede poca, però anche lei come Gasparotto è partito dal nulla, le difficoltà le abbiamo raccontate altre volte, le ha attraversate. Il dovere morale di dire qualcosa, Palmieri. Sì, ma guardi, le porto un piccolo esempio. Come tutte le aziende in questo momento si fanno tante domande sul futuro, perché la situazione non è serena per nessuno, evidentemente. E stavo provando a entrare in un nuovo mercato, quindi avevo relazione con i distributori, e dopo N viaggi che ho fatto senza apparentemente realizzare nulla, mi sono un po' scoraggiato, parlavo con il mio collaboratore e ho detto: mamma mia, già la quinta volta che vengo in Asia per questa roba e non combino nulla. E lui mi ha detto: ma prima di avere qualche soddisfazione con l'apiquadro, quando sei partito, quanto ci hai messo? E beh, sì, effettivamente io credo di aver lavorato 5 anni senza guadagnare una lira. Ecco, questo è un tema importante, cioè continuare a crederci, no? Poi io capisco che quando uno è in un vortice negativo e tutto gli va storto, nessuno gli dà credito, tutto diventa estremamente difficile da fare, però bisogna continuare a crederci, perché ci sono montagne di esempi positivi, ce ne sono evidentemente molti di più negativi, ma ce ne sono anche tanti positivi, no? di gente che anche in questo periodo è riuscita a fare qualcosa. Se molti imprenditori fanno fatica in questo momento, e anche perché il mercato sta cambiando, perché la domanda di beni e servizi sta cambiando, e quindi bisogna cercare di intercettare qualche cosa di nuovo, e questo è il primo tema. L'altro tema, e quindi è la voglia di fare e crederci, l'altro tema è come diceva l'interlocutore prima di me, alcune volte basta veramente poco. Io, come tutti, abbiamo degli amici che fanno gli imprenditori, magari un pochino più destrutturati di me, e alcune volte mi raccontano la loro storia apparentemente estremamente complessa per loro, e poi in realtà basta semplicemente un po' di credibilità e un po' di visione più ordinata per risolvere il problema, anche con l'odiata banca, no? Che non gli dà credito e che effettivamente non lo dà, sì, nessuno, o lo dà pochi. Palmieri, quello che però sta emergendo, ricordo gli interventi all'inizio di Aldo Bonomi, ma anche di vari personaggi, tra cui Giulio Sapelli, è la necessità, quel bellissimo intervento di quell'imprenditore argentino, di non confondere il progetto di lavoro con il progetto di vita, cioè a un certo momento di non confondere ciò che era la tua intenzione nell'affermarti anche a livello sociale con quello che è il valore della vita stessa. No, certo, capisco che è molto difficile, cioè questo approccio molto, permettimi, anglosassone è sacrosanto, no? Possiamo fallire col lavoro, poi ripartire punto e basta senza avere pregiudiziali. In realtà l'imprenditore, è specialmente noi italiani, siamo appassionati, e quella straordinaria passione ci lega poi anima e corpo a quello che stiamo facendo. È molto difficile tenere distinti questi due mondi. Io credo che pur senza arrivare a disperarsi oltre quanto è giusto, e quindi a perdere la lucidità, è bene metterci tutta la passione come se l'impresa fosse la vita, quello è vero. Grazie, grazie anche a Marco Palmieri. Noi stiamo raccogliendo le testimonianze di imprenditori che ce l'hanno fatta, non perché vogliamo dire che tutti possono diventare così, ma perché da queste cose che vengono raccontate, da queste storie, da queste narrazioni, a mio avviso si capisce molto di più di tante ricerche che fotografano il dato macroeconomico assieme. Grazie anche a Guido Palmieri, saluto per averci raggiunto in collegamento gli ultimi due ospiti, Oscar Farinetti, ex fondatore di Unieuro, ve lo ricordate, l'ottimismo è il sale della vita, e adesso fondatore di un progetto bellissimo, Italy, successo incredibile. Farinetti, buonasera. Buonasera. Se non mi porta lei un po' di ottimismo, ma non ottimismo retorico, non voglio dare una mano di bianco, come dicono a Venezia, ai problemi che ci sono. Sono 1500 mail che abbiamo ricevuto in una settimana. Grazie anche per Luigi Celdi, il direttore della Luis di Roma, e chiaramente grazie a Oscar Giannino che ci ha raggiunto, perché con lui chiudiamo questa giornata particolare, ma non chiudiamo disperati mai, ve lo voglio dire. Un saluto a tutti. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Sono un eroe. Salvatore da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Pronto? Prego, prego Salvatore. Sì, allora, da premettere che io sono un piccolo imprenditore, ho sentito appunto le storie che sono capitate agli altri imprenditori e questo mi spaventa molto perché una situazione del genere la sto passando io. Però io vorrei dire anche delle cose, non so, a delle istituzioni, a qualcuno che si interessa, oltre a voi che state facendo veramente una cosa meravigliosa, di intervenire, perché queste cose qua si sono create perché noi lavoriamo e alla fine ci sono quelli che in un modo o nell'altro, che sia vero o non sia vero, lo fanno con furbizia, non ti pagano, perdi dei soldi, falliscono. Cioè io mi trovo in una situazione dove ho lavorato, ho fatto 100.000 euro di lavoro, li ho fatturati tutto quanto, me ne è andati 40, insomma avanzo 62-65 mila euro di lavoro, questo qua è fallito. Cioè io adesso come mi arrivano le cartelle dell'Equitalia di 30 mila euro, di 20 mila euro, e non so cosa fare adesso, cioè io dove prendo questi soldi per pagare queste tasse qua? È questo che nessuno, mi sto accorgendo che sì, si parla di qua di là, ma nessuno che approfondisce questo discorso. Cioè andiamo a fondo ad aiutare questi imprenditori che veramente devono prendere dei soldi, sono in difficoltà per questo. Devono prenderli anche, quindi, anche dallo Stato, Salvatore, sono quasi 100 miliardi di crediti che lo Stato vanta nei confronti delle imprese, però Equitalia, non ce l'abbiamo con Equitalia, questo programma ha fatto, lo dico a chi scrive, una battaglia contro l'evasione fiscale di cui siamo fieri e continueremo a fare. Ce l'abbiamo quando lo Stato ti paga in ritardo e non ti paga, però poi vuole i soldi subito. Questo non è accettabile. Le centinaia di mail che abbiamo ricevuto in cui ci sono imprenditori, non ve le posso leggere tutte, che hanno aperto un mutuo per pagare le tasse, artigiani, commercianti, partite IVA. Aprire un mutuo per pagare le tasse non si può sentire in un paese normale. Allora, Oscar Farinetti, anzi Pierluigi Celli prima, vi chiedo l'estrema sintesi, e Oscar Farinetti, il compito è il vostro, il più difficile. Dopo quello che abbiamo sentito, premetto, non c'è stato un politico che ci ha chiamato, meglio così, non lo so, che si sciolga come neve al sole, tanto sono preoccupati a rifarsi il nome. Pierluigi Celli, torniamo ai temi principali: la solitudine, che questa è emersa con forza, la necessità di capire che questo tsunami lo attraversi solo in rete, in cordata, a mio avviso, e certo, no? Ti senti meno solo se qualcuno ti parla ogni tanto, però Celli, diciamola tutta. Io credo che sia fondamentale trovare reti di solidarietà, che sono molto spesso anche semplicemente reti di parole, di consigli, di condivisione di preoccupazioni, e poi di ricerca di strade che portino a una qualche soluzione possibile. L'indifferenza o la freddezza o la distanza delle istituzioni in queste cose è drammatica, proprio perché rivela il distacco ormai che c'è tra un paese reale e quelli che in realtà dovrebbero servirlo, il paese reale, in maniera migliore di altri sostanzialmente. Questo è, credo che sia uno dei temi rilevanti di preoccupazione e anche di disperazione, perché qui c'è della disperazione vera che non sa come rappresentarsi, a chi rappresentarsi, se non magari attraverso degli atti estremi come è successo in questi mesi passati. Allora, io credo che su queste cose una riflessione vada fatta anche per tornare a dare alle istituzioni, alla burocrazia, alla politica un senso vero, che è quello di servizio, di interessi collettivi, quindi di prendersi in carico anche i problemi che questi interessi collettivi si portano dietro, perché altrimenti il paese non ha alcuna possibilità di rimettersi insieme. Cioè il problema non è semplicemente di dare una soluzione economica per rimettere in piedi i conti, il problema è di ricreare un tessuto sociale in cui alcune virtù civili, alcuni valori civili tornino ad essere il collante del paese e anche la spinta a riprendere voglia di fare. Bravo, credo che tutto sia importante. Sì, qui non si chiede alla politica, al governo si chiede di pagare in tempi accettabili, alle banche di non fare tutto un erba un fascio, ma in generale non si chiede alle banche di fare l'elemosina e alla politica di aprire conti correnti fittizi. Più importante sarebbe dare un obiettivo, un orizzonte. Non vai in disperazione se vedi un orizzonte, non, è difficile questo. Il problema, quello che noi sentiamo, è l'assenza completa di un orizzonte, anche una transizione di un modello produttivo come quella che l'Italia deve fare, che ha iniziato a fare prima della crisi, la devi accompagnare. Non puoi dire a uno: tu eri piccolo, un po' di nero lo facevi, ci stavi dentro, adesso mi dispiace, c'è la Cina, c'è Equitalia, c'è la crisi e tu non ci puoi più stare più dentro, perché questo poi non sa più dove stare come suo ruolo sociale nella collettività. Oscar Farinetti. E guardi, l'altro ieri c'è stato il 25 aprile, lei sa che io sono figlio di un comandante partigiano della Matteotti e non mi resta che cercare di fare il partigiano in questo preciso momento storico, per cui cerco di fare l'imprenditore partigiano che continua a investire, che continua a assumere, che continua ad aprire. In questo momento sono nel cantiere di Italy di Roma, 20.000 metri, che aprirà spero in giugno, burocrazia permettendo, dando lavoro a 450 persone. Ma i suoi colleghi, cioè, che ha ascoltato in queste due ore e mezza di diretta, nella disperazione alcuni, nell'orgoglio, nello scatto orgoglio altri, lei che cosa, che dovere morale sente di assolvere? Allora, io non posso assolvere a doveri morali per tutta l'umanità e non ci riesco a farlo. Il dovere morale che mi sono posto, per quanto mi riguarda, è una grande attenzione al lavoro per i giovani. Noi cerchiamo di aprire imprese nuove, che sono tanti Italy, in Italia e nel mondo, che diano lavoro ai giovani, perché siamo sicuri di insegnare un mestiere che rappresenterà un grande futuro per loro. Fare il pane con i lieviti madri naturali, il grande pane italiano, trattare la carne, fare i salumi, fare la pasta fresca, i mestieri, fare la mozzarella, eccetera. Il futuro sarà nei mestieri. Vede, il tema forte che dobbiamo renderci conto è che noi stiamo assistendo al crollo della civiltà dei consumi. Non può più funzionare questo modello sociale. A questo si aggiunge ancora che negli ultimi 20 anni abbiamo mandato nelle posizioni chiave, cioè a fare la polis, noi stessi che ci lamentiamo molto oggi, le persone più mediocri e tra le peggiori, non tutte così, sa, Giolitti già diceva c'è un terzo che assomigliano a noi dei politici, un terzo peggio di noi e un terzo meglio di noi. Il problema è che questo terzo meglio di noi facciamo fatica di trovarlo. Abbiamo votato, abbiamo mandato nelle posizioni chiave persone terribili che si sono comportate molto male e che hanno creato il polipo della burocrazia. Io sto facendo il partigiano contro la burocrazia. Per riuscire ad aprire devo fare una fatica bestiale per superare tanti piccoli giochi burocratici che mi impedirebbero di farlo. Oggi dobbiamo, ciascuno di noi, dedicare di un'ora del nostro tempo, 5 minuti molto forte a lamentarci, ma poi 55 minuti per trovare la soluzione. E dobbiamo smettere di pensare che deve arrivare la soluzione dall'alto, dobbiamo cercarsela da soli, da soli, facendoci il mazzo e facendo diventare per noi imprenditori, prima assistevo a questo ragionamento, è veramente impossibile in questo momento storico non far diventare propria ragione di vita la propria impresa, perché se non lo fai fallisci, se tu cali un attimo l'attenzione in questo momento fallisci, e fallire vuol dire poi non assolvere a doveri fondamentali come pagare i tuoi collaboratori, pagare i fornitori e pagare le tasse. Bravissimo, Farinetti. Oscar Giannino, chiudiamo una giornata, devo dire, una delle più difficili per me, per te, per chi ha condotto oggi tutti i programmi di Radio 24 modificati. Abbiamo aperto un vaso di Pandora, a mio avviso c'è un silenzio, ma ci potrebbe troppo lontano questo ragionamento anche culturale, una distanza, come se stessimo parlando sempre di casi di ex evasori che vogliono questi, ma insomma, Disperati Mai ha dato voce a loro. Il silenzio, però, la voce non l'abbiamo sentita da altre parti, questo lo possiamo dire, Oscar. No, il silenzio, naturalmente, io credo, Sebastiano, io non parlo a nome della radio, la radio siete voi, la radio del direttore, Tamburini, eccetera, però io sono felice di essere, mi sento, come hai detto tu prima, è una questione etica prima ancora che professionale, ma insieme etica e professionale. Il silenzio di cui stai accennando è il silenzio dell'Italia che porta la responsabilità delle mancate risposte. È il silenzio della politica in carica oggi che non ha creato tutti i guai, naturalmente, che si abbattono oggi sulla tenuta di un tessuto così molecolare e profondo che è la forza di questo paese, ma che ha il dovere oggi di dare risposte. Faccio due esempi. Ma insomma, i 70 miliardi di debito commerciale alle imprese, che oggi sarebbe una leva finanziaria per farle risparmiare, i debiti commerciali che lo Stato deve breve alle imprese. Ma siamo sicuri che non c'è il modo prosoluto e non prosolvendo, attingendo alla cassa depositi e prestiti, per essere chiari, dico subito di che si tratta, per dare una risposta di emergenza alla tenuta dell'impresa? Io credo che si possa fare, e questo è un primo esempio. Secondo, ma è possibile mai che il governo pensi di procedere ad attingere le risorse per iniziare a pagare almeno parte dei crediti fiscali che deve alle imprese di tre anni fa, e che cosa fa? Lo fa attingendolo dagli stessi fondi che sono previsti invece per le imprese stesse. Ma dico, ma stiamo scherzando? E ecco, faccio solo questi due esempi. Io spero, perché andremo avanti, Sebastiano, andremo con le nostre trasmissioni, che presto o tardi il governo senta che nessuno sta dicendo che l'Italia è in ginocchio per colpa loro, ma loro oggi devono dare una mano a tutte le Alici che hanno telefonato oggi, che secondo me sono state una testimonianza assolutamente toccante. Noi, secondo me, dobbiamo chiedere e a tutti coloro che fanno impresa, qualunque associazione siano iscritti, di trovare il modo per riscoprire il valore, l'orgoglio, per tenere la gente ed evitare che non faccia follie, ma poi per dare le risposte. La politica ce la dovremo portare, Sebastiano. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Grazie a tutti gli eroi che ci hanno scritto, a tutti gli eroi che ci hanno telefonato, a tutti gli eroi che sono intervenuti qui. Non ringrazio chi non ci ha scritto, chi non ci ha telefonato, mi riferisco alla politica a cui tu facevi riferimento, ma anche a alcune associazioni di categoria, anche alle regioni, ai comuni, alle province. Il loro silenzio è stato assordante, ce lo ricorderemo, abbiamo una memoria lunga. Intanto però auguro a tutti voi, a partire dagli eroi, un buon fine settimana. Un ringraziamento particolare questa volta a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'immenso lavoro che hanno svolto anche per questa diretta. Noi siamo qua, non ce ne andiamo, disperati. Le nostre orecchie restano aperte. Mai. Focus Economia.